Insomma, abbasso Gheddafi oppure no? Gheddafi, se rimanesse in sella, lei sarebbe contento? E dipende da cosa ha combinato in questi Beh, giorni. 10.000 morti, pare. Ma io non Dopo credo che 10.000 abbia. morti, è sopportabile No, ancora se Gheddafi? veramente avesse fatto 10.000 morti, no. Perché è chiaro che c'è un limite Dovremmo finché. interrompere i nostri rapporti. Sì, direi di sì, perché se veramente ha fatto 10.000 morti, allora siamo di fronte non più a un dittatore, ma a uno che fa un genocidio, e quindi le cose cambiano enormemente. Io personalmente ritengo difficile che queste cifre siano reali, anzi auspico che non lo Però siano, anche sembra, per questioni ovviamente umanitarie. Però se veramente ha bombardato la folla, allora le cose evidentemente cambiano Cioè, aspetto, non è fosse più. provato Eh che sì, ha fatto quello che ha è fatto, chiaro che dovremmo interrompere qualsiasi allora rapporto con Gheddafi. sì, io credo che allora le cose cambiano aspetto.